occhi tuoi avevi un po' di lei, ma io ti dissi t'amo come sei. Una corsa tra gli alberi, una carezza per illudermi e un pugno nel mio cuore. Te ne vai. Mille luci, un uomo, la città, mille sbagli che non rifarei, ma un giorno la mia porta si apre e tu mi chiedi come stai. Un sorriso e poi perdonami, t'aspettavo, sai, amore mio. Il passato dov'è? Perdonami, l'ho scordato con te, amore mio, con te. Quanto dura il tempo dell'amore? Per me sempre un'ora sola, per te non hai capito.